nostro programma. Inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. E come potevamo mancare, nel senso potevamo mancare io e voi, egregie ascoltatrici, gentili ascoltatori, per questo appuntamento immancabile del sabato, per raccontarci di nuovo le notizie della settimana, sono talmente tante, sceglierne almeno qualcuna e commentarle insieme, così come nel tinello di casa, no? Uno si confronta e dice, ma sai quella cosa, però quando è successa quest'altra, io non condivido su questa, io penso quest'altro. Ecco, 800 24 00 24, da subito vi dico il numero verde per intervenire numerosi e commentare in libertà le notizie della settimana, che sono tantissime naturalmente anche in questi giorni. Io ve ne elenco giusto, vi do un suggerimento iniziale, ma è chiaro che voi potete andare a pescare dove volete, sapete che c'è sempre ogni settimana l'imbarazzo della scelta e la scelta è imbarazzata naturalmente. Quindi le amministrative, però vi avverto che c'è il silenzio elettorale scattato dalla mezzanotte di ieri, quindi non possiamo parlare di quello che succede, ballottaggi eccetera eccetera. Se volete la politica nazionale, internazionale, quella sì, ma non i ballottaggi. Poi l'attentato in Libano, sapete, sono stati feriti 6 connazionali. Il G8 con le misure che sono state prese dagli 8 grandi, così si chiamano, soprattutto rispetto ai paesi arabi, la loro primavera araba, le loro rivolte, eccetera, eccetera. Lo sfogo che c'è stato di Berlusconi, che ha fatto un po' il giro del mondo. Le proteste per il rischio di chiusura di alcuni stabilimenti Fincantieri a Genova e a Castellammare di Stabia, in Italia, che quindi è un problema grosso di occupazione, di dove sta andando anche, diciamo, la politica industriale del nostro paese. L'arresto di Mladic, il cosiddetto boia dei Balcani, ma lo è stato veramente con le migliaia di musulmani bosniaci che ha fatto decimare nella guerra dell'ex Jugoslavia nel 92. Il caso Anton Veneta, la notizia che è stata pubblicata stamattina, che dalle agenzie e poi anche dai giornali online, Antonio Fazio condannato a 4 anni per la questione Anton Veneta. Anche la Svizzera dice no al nucleare, poi tutti i fatti di cronaca, no? Dai funerali della povera Yara dopo diverso tempo, finalmente, almeno senza che ci fosse ancora purtroppo il colpevole, si è dato l'ultimo saluto a Yara. Anche sulla questione del delitto di Avetrana, Cosima, ormai si conoscono per nome proprio queste persone, la madre di Sabrina Misseri e moglie di Michele Misseri, tutte e due in carcere per l'uccisione della nipote e cugina Sara Scazzi lo scorso 26 agosto, è finita la madre, anche la zia, diciamo, di Sara in carcere in questi giorni. L'altro bimbo dimenticato in auto, che è una questione veramente difficilissima da affrontare, il secondo caso in pochi giorni, non ne sarei tornata a parlare, però ne vorrei tornare a parlare proprio perché ho visto un'accusa pesante di telefono azzurro. Allora lì vorrei chiedervi anche voi cosa ne pensate. Poi gli sviluppi sulla vicenda Strauss-Kahn, e insomma sono moltissime le notizie come sempre. Per quanto riguarda invece la notizia che ci conferma anche questa settimana che non ci sono più le mezze stagioni, è che tra poco non si avrà più la scrivania. Uno dice grazie, non c'è più il posto fisso, non c'è più il lavoro, precariato, manco la scrivania. No, è proprio una misura molto originale, particolare, diciamo, particolarmente tecnologicamente avanzata, visto qual è l'azienda che la fa, di Microsoft Italia, questa novità. Presto in ufficio ci sarà una rivoluzione, addio al mito non del posto fisso ma della scrivania fissa, nel senso che Microsoft in Italia decide di polverizzare addirittura 830 scrivanie e sostituirle con uno smartphone e un tablet, che ormai vanno molto di moda, e liberando anche i dipendenti, volendo, questo è il lato positivo, dalla rigidità degli orari. No? E quindi sarà impostato il lavoro non più sull'essere lì presenti come stoccafissi alla scrivania, ma tutto per obiettivi individuali, naturalmente anche per autodisciplina. No? Si fa all'università, non è che uno dice vabbè, non devo essere lì tutti i giorni come a scuola, quindi no, uno poi deve sapere quali sono gli obiettivi e anche darsi l'autodisciplina. Questo per quanto riguarda il fatto che non ci sono più le mezze stagioni, ma qual è la vostra notizia della settimana? 800 24 00 24, tra pochi istanti una splendida opinionista estemporanea, ma voglio ricordarvi anche che c'è sempre la pagina Facebook dedicata a Non ci sono più le mezze stagioni. Tanti sono i commenti su alcuni fatti di questa settimana, per esempio sullo sfogo di Berlusconi al G8, devo dire sono stati un po' tutti interventi negativi, insomma, di critica, se volete andare a vedere poi la pagina. In furia la polemica anche sui braccialetti, questo metodo utilizzato dai vigili urbani di Roma per segnare gli ambulanti che vendono merce contraffatta. Questa coppia canadese che fa un esperimento con il figlio, poi ci andiamo sopra anche la pagina Facebook, ma direi che è il momento, senza dubbio, di presentare, signori e signori, l'opinionista estemporanea di oggi. Serena Dandini. Salve a tutti. Sei Serena Dandini, sei Serena? Sei piuttosto Serena, sì. Grazie di avermi invitato e... Grazie a te di aver detto di sì, ecco, di aver detto di sì. Serena Dandini, che non ha bisogno, naturalmente, come si dice, la frase vada di presentazioni, mi sembra che proprio tu non ne abbia bisogno, ma la cosa interessante è che oggi Serena è nella veste di esordiente letteraria, un po' esordiente totale, come diceva Fantozzi, no? Mi sembra totale, veramente. Anch'io. Però con un bellissimo libro, un bel tomo. Quando l'ho sollevato nella busta, dico: mazza, cosa ci sono? Mi avranno portato un regalo, qualcosa. Ed è effettivamente un regalo, perché è un libro molto bello. Ma nella quarta di copertina leggo, perché spesso vado prima alla quarta di copertina, ancora prima di vedere la copertina, è un mio vizio questo. Leggo, a parte la bella foto di Serena, davanzali di tutto il mondo unitevi. Vedendo un po' il davanzale di Serena, ho pensato: Dio, si ritorna a parlare ancora di davanzali di queste cose. Anche tu, come Vergasso, eh? Ah sì, anche è la prima cosa che ha detto, non ho sentito. E quindi giustamente ha puntato gli occhi sul davanzale. Tu intendevi invece, visto che questo libro è dedicato al giardinaggio anche un po' come arte di vita, arte del vivere, sì. Si intitola Dai diamanti non nasce niente, storie di vita e di giardini. Di vita e di giardini, non a caso, perché si parla molto di vita mia, di personaggi che amano il giardinaggio e non solo, di personaggi che hanno vissuto in bei giardini o che li hanno costruiti. Insomma, diciamo che il giardino, le piante sono un fil rouge che lega storie di tutti i tempi, anche episodi della mia vita che sono legati alle piante, ma non solo. È stato un modo originale, anche di originale. Vita sostenibile. Sì, è vero. Desiderio di felicità sostenibile. Stiamo diventando poco sostenibili, non si può più sostenere, dici? Beh, Serena. Insomma, no, non si può più sostenere il pianeta. Infatti anche un libro su il giardino planetario, che è la nostra terra, che c'era stata data come un giardino, addirittura appunto l'ipotesi è che il giardino dell'Eden non è che ci hanno cacciato, siamo noi che l'abbiamo rovinato, perché era esattamente la terra prima della rovina che gli abbiamo imposto. E forse Dio se n'è andato, non siamo noi che siamo scapicacciati, anche può questa essere. Ipotesi sì, nel libro. Sì, è vero, una buona interpretazione. Poi tra l'altro, Serena tratta tanti aspetti, divaga molto, sempre pur essendo legata alla bellezza dei fiori, della natura, eccetera, dell'arte del giardinaggio. Dice per esempio: non mi sono meravigliata nel leggere che negli Stati Uniti hanno sperimentato con successo l'attività giardiniera, non solo come cura antidepressiva, ma anche come terapia per chi ha subito traumi, vissuto situazioni estreme, come i veterani di guerra in America, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, medicina, sì, arte di vivere, tante cose. Medicina, una terapia ti riporta delle virtù che stiamo perdendo, la pazienza, l'osservazione e anche imparare dai fallimenti, che è una cosa interessante. Ecco, per esempio, scusa, sui fallimenti. Io non riesco a tenere una pianta, manco grassa, cioè una grassa sola che resiste da qualche tempo. È tutto un collasso. L'ultima, mi pare che si chiamasse, aspetta, vediamo se mi viene, una crassula, quella con i tubini, non so se la conosci, che sembra che abbia delle trombette al posto delle foglie. Io ogni tot anni la prendo, mi entusiasmo in un negozio, la prendo, la metto lì, insomma, alla luce, la innaffio, ecco, magari a volte la innaffio troppo poco, a volte per niente. Come dicevamo, letti in bianca, cosa vuoi? Trocca più acqua, meno acqua. Non si capisce. La famosa scena dove mi poi butta la pianta di sotto. Lo capisco, io non la butto di sotto perché magari c'è qualcuno. Però ogni volta mi colla, la vedo proprio sdraiata. Perché è si sdraia? Non demordi. Non demordi. E quindi questa è una grande lezione. Però non imparo dei miei fallimenti. Ma non imparo, perché io non ho ancora capito come. Però hai capito? Non lasciarsi andare. C'era un politologo cecoslovacco che ha scritto un delizioso libro sul giardinaggio, perché poi scopri che dietro gli uomini o più austeri o più impensati ci sono un grandi coltivatori di rose, sì. E che dice: se dovessi scegliere una persona per mettere a capo del mondo, sceglierei un giardiniere, perché è l'unico sicuramente ottimista per le prossime stagioni. Guarda sempre in avanti, quindi a proposito di mezze stagioni, intere stagioni. Esatto. Serena, se tu dovessi dire, visto che già ci sono ascoltatori e ascoltatrici che premono all'800240024, qual è la tua notizia della settimana? Se vuoi giusto l'argomento, non è che dopo sono un'espertona, qualcosa sulle mie fallimenti ho imparato, ma non sono certo una guru del giardiniere. di Lando che, no, quelli che ti chiamano e dicono: oh, un ragnetto verde, come devo fare? No, quelli no. Però se tu dovessi dire cosa ti ha colpito in questi giorni dei fatti della settimana, una notizia che ti ha... Diciamo parecchie notizie sicuramente. Mi ha molto colpito questa strana, assurda, forse casuale sequenza di padri stressati che dimenticano i figli in macchina e che va al di là, insomma, del commento naturalmente che tutti facciamo di orrore, però c'è qualcosa che ci parla anche dello stato della nostro stress, della nostra infelicità quotidiana, forse un'organizzazione di vita non per giustificare, un po' troppo frenetica, un po' troppo folle. Però delle riflessioni forse su che tipo di società ci siamo costruiti. Non a caso proprio in questi giorni la OCSE e altre attività, insomma, hanno tirato fuori questa cosa che in molti, molti stati stanno rivedendo il PIL come un indice che non dipinge veramente il benessere. Il prodotto interno lordo non è l'unico criterio di benessere, bisogna vedere anche la gente come vive, la qualità di vita. A proposito di giardinaggio, no Serena? Però io direi, cominciamo a sentire un ascoltatore poco prima della viabilità, Nicola da Milano. Nicola, eccoci qua. Pronto? Eccoci qui, Nicola. Sì, scusate, sì, sto asciugando le mani, scusate. Stai lavando i piatti o giardinaggio fai? Sto iniziando a mangiare perché mia moglie sta lavorando, allora mi devo arrangiare. Giustamente, insomma, reciprocamente poi. Quindi Nicola, mentre stai per mangiare, prima del boccone, sì, che non si parla con la cosa in bocca, e qual è la tua notizia della settimana? Premetto che mangerò poco, cose di sardine, basta. Ah sì? Ma perché se uno, perché hai letto in questi giorni che chi mangia meno conserva meglio la memoria, forse per quello, o sei a dieta, prova costume? Sarà che non c'ho voglia di cucinare, anche se un po' pigro. Lo so fare, ma certe volte non si vuole. Scatolette, quindi. Okay, vabbè, ma ho letto che sono piene di varie cose, omega 3, potassio, le alici, fanno bene. Tante lettere greche che dentro, omega beta. Sì, un sacco di cose che non stiamo qua a elencare. Quindi, la mia è una cosa, è un commento, più che un commento è una considerazione amara sul fatto che purtroppo, ancora una volta, il nostro Presidente del Consiglio ha addirittura stavolta voluto mettere in cattiva luce, in un cospetto comunque internazionale, la giustizia italiana. Al di là di tutte le motivazioni che può avere a livello personale, eccetera, però questo veramente, secondo me, vuol dire che ha un significato ben preciso, che la persona è stata proprio abbandonata politicamente. Ecco, io mi fermo qua, tutto qua. Proseguiamo dunque, Roberta Giordano sempre con voi e mia opinionista estemporanea oggi è Serena Dandini al suo esordio letterario con Dai diamanti non nasce niente, da un verso, no, del grande De André, è vero Serena? Storie di vita e di giardini pubblicato da Rizzoli. E, Serena, a proposito di quello che diceva prima l'ascoltatore Nicola, quindi ha citato un'altra delle notizie della settimana, questo sfogo di Berlusconi al G8 all'orecchio di Obama, a proposito della giustizia italiana. È abbastanza imbarazzante, devo dire, perché l'imbarazzo è un sentimento che uno sperava di non provare rispetto, insomma, alle persone che dovrebbero rappresentarti nel mondo, e invece purtroppo vedo che al di là di la destra, sinistra, di quali sono le tue, se pensi che sia meglio un tipo di governo o un altro, l'imbarazzo è al di sopra ed è veramente imbarazzante fare questo tipo di figura, no? Anche perché, voglio dire, i magistrati e le istituzioni vanno comunque rispettate, anche per i giovani che non sanno, secondo me ci crea un effetto confusione enorme con questi mischi pasticci di tutta erba un fascio di qualunque cosa, e perdono forza e credibilità le nostre istituzioni, che dovrebbero essere invece nei momenti difficili proprio nei punti basilari. Insomma, è molto imbarazzante, devo dire. Sentiamo Giovanni da Pisa. Roberta, buongiorno. Buongiorno a te. Un saluto a te, la tua ospite. No, sì, l'imbarazzo forse è dire poco. Cioè, se si deve prendere sul serio questa cosa, è una cosa di una gravità eccezionale proprio. Quale cosa, Giovanni? È lo sfogo di Berlusconi, ovviamente, si parla di questo. E se invece, siccome io questo personaggio non riesco, non sono mai riuscito, fin dal 94, a prenderlo sul serio, dal punto di vista politico, ovviamente, e io la prendo un po' a ridere, ecco, io ho visto come come un bambino che va dalla mamma a dire ci sono dei ragazzacci che mi hanno fatto la bua, ecco, una cosa del genere. Ha fatto questo effetto, cioè. Sì, ma si può sapere se a questa informazione che lui ha dato a questi personaggi che penso l'abbiano guardato in maniera, cioè, la faccia di Obama mi sembrava di un'espressione come dire, ma cosa mi viene a dire? Ecco, si sa se qualcuno, perché a questa informazione non c'è risposta fondamentalmente, ma si sa se qualcuno ha risposto e chi se ne frega. Oppure sono cavoli tuoi, oppure tutte e due le cose. Non è pervenuta questa cosa, Giovanni, però leggevo un'agenzia di adesso, di pochi istanti fa, un flash di una risposta che già ha dato comunque in questi giorni l'Associazione Nazionale Magistrati, che dice: le continue aggressioni da parte del Premier alla magistratura producono anche un danno all'immagine del nostro paese, così la ANM replica le dichiarazioni di ieri di Silvio Berlusconi. Perché ce ne sono state poi delle altre. Però direi, come sempre, essendo un programma estremamente democratico che valuta tanti punti di vista, quindi chiamate sempre con la massima libertà, con le vostre opinioni, basta essere civili, ognuno esprime naturalmente quello che pensa, ma direi che anche proprio per questo l'unico programma a collegarsi con un altro pianeta. Riflessioni da Marte. Anche qui da Marte, devo dire, è piuttosto evidente il silenzio elettorale, no? Che si deve tassativamente rispettare, naturalmente, e già se ne va la voce qui da Marte proprio per l'argomento delicato, fa un po' l'effetto questo silenzio elettorale sugli esseri umani, in specie quelli italici, fa l'effetto, dicevo, sapete, di quegli esperimenti estremi, no? Con le cavi umane in cui per esempio per tot tempo si deve rimanere assolutamente senza cellulare. È vedere di nascosto l'effetto che fa. Ecco, qualcosa del genere, no? Vedere di nascosto l'effetto che fa. Il rimanere in silenzio elettorale fa un po' quell'effetto spaesante, no? Come se si fosse disorientati in una dimensione altra, innaturale, sospesa, straniante. Un po', forse a proposito di questo, di esperimenti estremi, diciamo, sugli esseri umani, come quel 60% di pensionate che nell'italico paese vive con una pensione inferiore ai 500 euro al mese, dati di questa settimana. E caspita, se sono in grado di sopravvivere in tali estreme condizioni, queste pensionate potrebbero entrare a pieno titolo nei Marines, già belle collaudate, belle pronte, diciamo. Ma anche Strauss-Kahn, da qualcuno considerato un po' Kahn e molto Strauss, non se la passa tanto bene neanche lui in questi giorni. Pensate che dopo essere stato rifiutato come un Kahn da molti alberghi di lusso, è stato costretto, per non stare ai domiciliari sotto un ponte, che effettivamente è poco ortodosso, no? Stare ai domiciliari sotto un ponte, è stato costretto a pagarsi un appartamento a Manhattan, come si dice, di 600 metri quadri su tre piani, con inclusi palestra, sala teatro, jacuzzi, ogni minimo equipaggiamento indispensabile, insomma, per la vita di ognuno, naturalmente, no? Dicevo, è stato costretto ad affittare questa modesta dimora per $50,000 al mese, insomma, una bella spesa, poveretto. Almeno le pensionate italiane non devono sborsare tutti questi soldi per sopravvivere. È un bel vantaggio, ma per fortuna c'è sempre qualcuno che vuole cambiare il mondo. Ne è un esempio Mark Zuckerberg, che effettivamente ha inventato Facebook, quindi già un grosso cambiamento, ma non si ferma qui. Annuncia il suo prossimo obiettivo etico: diventare vegetariano. E che fa Zuckerberg allora, no, per diventare vegetariano? Coltiva zucchine e rape biologiche? No. Fa forse costruire un monumento al pomodoro oblungo davanti a casa sua? No, niente affatto. Fa ben altro. Dice: mangio solo animali che posso uccidere con le mie mani. Voi pensate, qualche moschino o qualcosa? No, dice, è uno stratagemma sicura per diventare vegetariano. E sul suo profilo privato, proprio in questi giorni, ha scritto di aver appena ucciso un maiale e una capra dopo aver pubblicato la foto di un pollo fatto secco con le sue mani. Un piccolo squartatore in erba, insomma, potremmo dire. Forse però qualcuno, credo, dovrebbe chiarirgli il significato di vegetariano, perché dà un po' l'impressione, diciamo, di non aver capito bene che cosa si intende. E soprattutto non ha detto a nessuno quanti animali deve ancora accoppare per riuscire così a divenire definitivamente vegetariano. Non ha detto proprio a nessuno. Pare però che al G8 di questi giorni abbia giusto sussurrato qualcosa del genere all'orecchio di Obama. Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè. A malapena riesco a mandar giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a te a The Drive. Mm-hmm. E ritorniamo con i piedi per terra. 800 24 00 24, molte telefonate tra poco. Rosi da Rieti, Beppe da Verona, ma abbiamo anche Serena Dandini. Forse tu lo conosci, secondo me è millanta la tua conoscenza quest'uomo, perché lui dice: ah, è il mio blog di satira più conosciuto al mondo, globalizzato, eccetera eccetera, no? Adesso mi dirai, Serena, se tu conosci un certo Stefano Andreoli, spinoza.it, ti risulta? Così, giusto così, ogni tanto quando non sei lì presa dal giardinaggio, dalle tue trasmissioni, magari una volta ogni due anni vai lì sul suo blog. Sì. Bello, sì, è una per forza, perché comunque non è che il giardinaggio esclude internet, anzi, che cosa? Perché è bellissimo poter comprare le piante via internet. Ah, tu le compri via internet, addirittura, sì. Ma sei molto avanti. È molto divertente, ormai, no, tu puoi vedere delle rose inglesi e sceglierle, quindi se io ordinarle, compro, ti arrivano in due giorni, è una cosa meravigliosa la rete, anche per le piante. Senti, per esempio dall'Inghilterra che ti arriva, che non c'è in Italia? Certe rose che loro hanno, naturalmente ci sono un paio di ibridatori molto importanti, storici, interessanti, allora poi... nel catalogo ci sono alcune rarità che qui trovi veramente nei momenti di depressione pomeridiana invernale, di pioggia. Sogni le rose inglesi. Esatto. Allora, dicevamo, adesso diamo un po' di sussulto a questo nostro ospite, Stefano Andreoli. Visto le presentazioni che ho fatto, intanto anche diciamo, Serena ti dedica quel 30 secondi. Caro Stefano Andreoli, ma la tua funzione qui è farci un'istantanea di questa settimana, come la descriveresti? A Detroit. Eccoci qua, saluto Serena, che anche se si dissocia, ci siamo incontrati al Salone del Libro. Ma con tutte le persone incontro, perché si ricordi di te, fosse un pezzo no, di ragazzo. Ma noi siamo, scusa, certo che sì, no, sì, no. Sì. Non so se lui si ricorda di me. Lo fa per gentilezza, la assolutamente, Dandini. Assolutamente, io voglio bene a Serena. Dai diamanti non nasce niente, il suo libro, io temo un po' il titolo del seguito, spero che non sia... Mentre dall'etame, quella roba lì, giustamente. Comunque, la settimana, chiaramente silenzio elettorale, non si può dire sappilo. Né questo né quell'altro. No, neanche quell'altro. Possiamo dire Gigi D'Alessio non ha cantato a Milano, le provano proprio tutte, veramente, è uno stratagemma non farlo cantare, veramente un bieco stratagemma elettorale, ma pare che non abbia cantato perché avrebbe disturbato il muezzin. Questo è il motivo, perché si sa, Islamopoli è alle porte, quindi chiaramente bisogna anche attenersi agli usi di chi andrà a governare la città. Non dico niente. Veniamo a notizie meno... anche un po' curiosità, una studentessa ha scoperto il mistero della massa mancante dell'universo. Sì, la materia oscura. Esatto, la materia oscura. Dai calcoli degli scienziati si presumeva che l'universo avesse il doppio di massa che in effetti ha, e quindi non si capisce dove sia finita questa massa. Questa studentessa l'ha trovata dopo il TG1. Dopo il TG1, e quindi è tutto lì. Vabbè. L'Italia spende 10 miliardi. La barba, sì. L'Italia spende 10 miliardi di euro in cosmetici. Questo perché? Perché battiamo tutti, ecco. Questa è una battuta che arriva dopo, ma non c'è problema, andiamo alla notizia. Al di là delle elezioni, un po' della settimana, ha preso Mladic, il boia serbo. Sì, molto importante questo. Viveva in clandestinità dal 96. Come molti. Lo hanno riconosciuto dal Walkman, perché era l'unico ancora che portava il Walkman, esatto. Concludiamo con il commento che non potrebbe mancare dell'onorevole Borghezio, che ha detto, commentando l'arresto, criticando l'arresto: Mladic non è altro che un patriota. Sì, così ha detto. Mladic è un patriota, e di Borghezio si può dire una cosa che fa rima. No, ti prego, grazie. Guarda, ho pensato subito, Paola, l'ascensore. Mannaia, è immediatamente crollata sopra Stefano Andreoli. Grazie, Stefano, è stata indispensabile, naturalmente, la sua presenza. Serena, vogliamo sentire, avevi un commento da fare su qualcosa detto da Stefano, o passiamo al prossimo ascolto? Che credo che certe buttade, o butanate, come diceva il mio amico Guzzanti di Borghezio, vengono dette solo per essere commentate. Forse hai ragione, sai. Giornali, quindi forse bisognerebbe ignorarle, perché sono di una tale follia che gli fai solo piacere, credo, a creare dibattito su questo. Non lo so, capisco che è irresistibile, specialmente per la satira, perché te le presentano proprio sul vassoio d'argento, però avrei voglia di veramente sopravvolare sopra, diciamo, dopo che aveva ordinato questa mattanza in Bosnia, no? Di migliaia di persone, mi sembra tutto sommato un patriota. Per me si può dire tutto, e l'ho posto di tutto, va bene, no? Poi si può smentire il giorno dopo, poi si può, non so, no? C'è una libertà totale per cui si crea una tale confusione. Sì, questa è un po' una caratteristica della politica italiana, almeno negli ultimi anni, effettivamente. E alla fine invita le persone a disinteressarsene, questo è il problema, no? Invita il cinismo al disinteresse, perché sembra che è tutto una pastoia, di, no? Invece, insomma, non è proprio così. Certo, è uno dei momenti più bui, credo, della nostra Repubblica, ma proprio per l'incomprensione che abbiamo, diciamo, a capire molti sistemi, no? Come tu dici, sono persone che prendono 500 euro di pensione e invece ci sono persone che si fanno regalare addirittura il frullatore come tangente, quindi sai, se metti insieme due notizie così diventi pazzo, no? ti frulli da solo. Sì, esatto. 800 24 00 24, c'è Rosy da Rieti. O Rosy? Pronto? Buonasera. Ciao Rosy. Buonasera, un abbraccio a te, a Serena, che è una donna meravigliosa, veramente. Con un davanzale straordinario, Rosy, effettivamente bisogna dire. Rosy, quanti anni hai, scusa? Con questa Io ho 26 anni. 26 anni, mi fa molto piacere. Che fai di bello? Allora, io sono laureata in scienze politiche. E, diciamo, un'azienda di tecnofibre per uso dermatologico, e, insomma, molto... Una roba molto complessa, ecco. Mi sembra. Tutta tua o lavori? Ci lavori, Rosy. Cosa volevi fare il tuo commento? Allora, io tenevo tanto proprio a, visto che il nostro diritto di informazione è messo in pericolo ogni giorno, anche dalle reti che dovrebbero invece proprio garantire l'informazione pubblica, ricordare a tutti che il 12 e 13 giugno bisogna andare a votare per il referendum sull'acqua come bene pubblico, insomma. Quindi è un referendum abrogativo che eviterà la privatizzazione del servizio proprio idrico, appunto, della gestione dell'acqua, e quindi votiamo sì per dire no. Ma, quindi Rosy, insomma, volevi fare un po' di informazione, ricordare che ci sono i referendum. Dimmi una cosa, Rosy, siccome è una notizia che hanno molto commentato sulla pagina sei iscritta alla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni? E no, non sono iscritta, purtroppo. Rosy, è possibile? Mi iscriverò al più presto. Al più presto? Cioè, appena chiudi il collegamento, corri a casa subito, e collegati. Subito. Rosy, senti, tu puoi rimanere ancora un istante? Come no, volentieri. C'è una pausa, ma poi ti volevo sottoporre una notizia. Anzi, io te la lancio lì così nel frattempo ci pensi, mentre Paolo mi fa, dalla parte tecnica, un po' di fretta. Questa coppia canadese, hai letto di questo esperimento che fa questa coppia canadese, passata su tutti i giornali a livello internazionale, eccetera. Ha tre figli, ci ha provato con i primi due, insomma, con molti successi. Adesso è nato un figlio figlia, non vogliono dire il sesso di questo figlio figlia, perché vogliono, l'ha chiamato Storm, come tempesta, perché vogliono che cresca libero, libera di essere se stesso, di cercare la propria identità, di non avere concetti precostituiti su il proprio ruolo nella vita, nel mondo, eccetera eccetera. Per il momento non vogliono dire a nessuno il sesso, vogliono vedere fino a quanto è possibile preservarlo, preservarla dai condizionamenti esterni. Cosa ne pensi, Rosy? Tu pensaci in questa pausa, anche le ascoltatrici e gli ascoltatori, anche Serena Dandini, che ci sarà ancora, che continua fino alle 15 a essere con noi. 800 24 0024. E rieccoci qui, sempre Roberta Giordano con voi, sempre mia opinionista estemporanea di oggi, e Serena Dandini al suo esordio letterario con Dai Diamanti Non Nasce Niente, storie di vita e di giardini, pubblicato da Rizzoli. E poi, lo sapete, ha ideato un sacco e condotto un sacco di programmi, la TV delle ragazze, Avanzi, Pippo Kennedy Show, L'Ottavo Nano, e poi dal 2004 conduce tutti i giorni su Rai 3 il talk show Parla con me, adesso sta parlando con me e con voi, ascoltatrici sì, e ascoltatori. Serena, su questa cosa, ecco, adesso lo chiedo anche a Rosy, no? all'800 24 00 24, cosa ne pensi di questo esperimento, appunto, di questi genitori canadesi? Perché ti leggo qualche commento da Facebook, da pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, sì. Così Robert dice: lo tengono in gabbia, dice, un po' difficile sperimentare questa cosa. Max scrive: a parte confondere una persona in un momento delicato, a cosa serve, poveretti i figli? Poi Alberto scrive: da un po' di spiegazione di come i bambini dai primissimi mesi sappiano, siano già poco consapevoli di sé. Maria Chiara dice che è molto bello, forse dice però c'è un equivoco. Immagino che semplicemente i genitori non insisteranno sulla diversità di genere, sui ruoli precostituiti, e non diranno al figlio quale ruolo dovrà avere per forza nella vita. Secondo Monica, è sbagliato, come fanno a non rivelargli l'identità sessuale? Mi sembra impossibile, per fare ciò dovrebbero nasconderlo, alienarlo dall'ambiente, invece è giusto che cresca con gli altri. Per Corrado dice: ma non è meglio se insegnano al figlio o figlia a essere un essere umano? Basta? Che pensi tu, Serena? Forse questa, diciamo, che è la considerazione forse più opportuna. Ma infatti penso che o c'è un po' un'esagerazione da parte dei media, perché come a volte succede, voglio dire, è proprio molto giusto non dare per forza le bambole alle bambine. Anch'io sono d'accordo, sì. Le pistole ai maschietti, ma da qui a in ogni caso nascondere il sesso, che poi che ti nascondi è molto difficile, ma trovo che sia un po' sperimentare. Non vogliamo fare esperimenti sugli animali, figurati se vogliamo fare sui figli, insomma, questo mi sembra rischiano di diventare cosa... delle cavie. Però è giusto, no, che ognuno, cioè tutti questi, però invece sul genere c'è molto da dire, ecco. Per esempio il nostro paese no, un ammiccamento continuo a certe qualità maschili di bunga bunga, che invece forse sarebbe interessante anche spiegare che non è detto che uno è un maschio, perché è così. Cioè, certo, oppure, e poi le discriminazioni che continuano anche sul lavoro, nell'immagine, eccetera, in politica. Ma ci sarà un motivo per cui siamo l'ultimo paese della lista dolorosa, parità femminile, lavoro, occupazione. Rappresentanza politica, dopo il Ruanda anche la rappresentanza politica. Sentiamo... Sarà un motivo, no? Sarà un discorso culturale dietro, anche che forse quello andrebbe affrontato. Infatti, e si continua a rimandare, oppure a considerare una cosa, insomma, diciamo così, da chiacchiera un po' inutile, da femministe ancora con gli zoccoli gonnelloni. Con i baffi. Rosi, sicuramente non hai baffi. Rosi, tu che cosa pensi sinteticamente di questa notizia? Sì. Di questo? Sì. Ma io penso, sono d'accordo appunto con chi dice che non si debbano fare esperimenti, sinceramente, tra l'altro per diventare famosi, no? Per essere chiacchierati sulle pagine dei giornali. Secondo me è importante insegnare la libertà. Per cui anche quando diciamo un figlio nasce, non è detto che debba per forza ricevere un sacramento, perché la nostra tradizione ce lo dice, perché insomma un bambino cresce e poi da adulto sceglie cosa vuole fare, insomma, quale strada prende, quale, dice. Esatto, anche che genere appunto se vuole essere che uomo gusti. Donna o, e ecco, che gusti e che gusti un po' seguire, che cosa, a cosa appassionarsi. Grazie. Esatto. Rosi, ricordati pagina Facebook, poi controllo. Subito, mi scrivo molto subito. Benissimo, grazie Rosi. Grazie mille, arrivederci. Ciao Rosi, buona giornata. Beppe da Verona. Ciao. Beppe. Ciao Roberta. Ciao te, Beppe. E intanto permettimi, visto che è un'occasione più unica che rara, di salutare la Serena Dandini. Serena? Che trovo adorabile. Amore mio, Beppe, che meraviglia. No, ti trovo adorabile, Serena. Guarda, non mi sembra vero di stare qui a parlare con te, ma non voglio togliere spazio. Infatti, Roberta. È un'imitatrice. Ecco. Serena, anche tu sei adorabile, Serena. Quando torno dal lavoro, perché io lavoro anche di sabato, sono maresciallo nella Croce Rossa e quindi lavoro anche di sabato perché faccio emergenza. Complimenti e quindi a te, stiamo gestendo una quindicina di 1000 profughi che stanno arrivando sulle nostre coste, dargli da bel mangiare, lavoro. Da bere, da dormire. Quindi. Allora, e quindi è dolcissimo sentirti, perché è rilassante. Ti penserò. Un'altra cosa, voglio dire a Serena che se venderai... Volevo dire a Serena che se venderai una copia del tuo libro a Verona l'ho comprata io, perché adesso sono sdraiato. Monitora, Serena, monitora poi su Verona, cosa succede, le diamanti non nasce. ma dategli il mio numero, perché poi gli mando anche una copia adesso libro. Adesso non intrecciamo troppo le cose, poi forse sei anche sposato, creiamo scandali così in diretta. Sì, no, ma mia moglie è qui di fianco a me, quindi non... Passala un attimo, sì. Beppe, passamela, vediamo se dice la verità, sentiamo. Sì, aspetta, Giovanna? C'è la Roberta che vuole parlare con te, perché non ci crede che tu stai vicino a me mentre parlo alla radio. La Roberta mi piace, sì. Giovanna? Pronto? Giovanna! Ciao! Ciao Giovanna. Senti, è un buon marito Beppe, puoi dirlo. Sì, infatti. È un buon marito, lavora molto? Sì. Abbastanza, dai. Senti, in casa si dà da fare o fa quello? Io lavoro fuori, tanto lavoro, stanco. Com'è? Si impegna. Senti Giovanna, e ti fa piacere che lui trovi adorabile Serena Dandini? Sì, anche tu. Grazie. Piace anche a te Serena? Sì, infatti. Beh, quindi niente da dire, insomma, può parlare tranquillamente adesso, va bene. Sì, grazie sì, Giovanna. Infatti. Abbiamo avuto la tua autorizzazione. Ciao. Giovanna, ciao. Beppe. Tosta questa radio, che brava. Allora, vediamo perché ti ho chiamato. Forse perché lavoro per un'organizzazione umanitaria, voglio spezzare una lancia a favore di quel povero papà che si è trovato il figlio morto nella macchina. E volevo intervenire in questi termini. Effettivamente il concetto di stress, il concetto di sovratensione emotiva sul lavoro, eccetera, può fare anche questo. Io te la metto tu in hai figli termini. Beppe? No, io non ho figli, però ho fatto sostegno nella scuola tanti anni fa, per cui lavoro tantissimo e ho lavorato tantissimo con i bambini. Io adoro i bambini e sono veramente profondamente prostrato e addolorato per quello che è successo a questo bambino di 11 mesi, però non facciamo sempre il discorso della caccia alle streghe, qualcuno contro cui puntare il dito perché questa è la notizia del giorno. Cioè, chiediamoci quanto era stressato quel padre. Però mi sembra, che... Beppe, tutto sommato, anch'io mi aspettavo che ci fosse più, diciamo, collettivamente un moto di indignazione, eccetera. Invece c'è stata molta comprensione, non solo dalle reciproche mogli di questi due uomini padri, successo nell'arco di pochissimi giorni, no? La piccola Elena qualche giorno fa e poi Jacopo ieri o l'altro ieri. Devo dire che tutto sommato le persone, l'opinione pubblica, anche analisti, osservatori, eccetera, sono intervenuti con una certa compassione e tentativo anche di comprensione, anche perché dicono, non so, oggi c'è per esempio l'editoriale del pezzo di Francesco Merlo su Repubblica o quello di Elena Lowenthal sulla Stampa, tutte e due alla fine dicono che questi padri sono colpevoli, innocenti insieme, paradossalmente, ma che sicuramente l'inferno a questo punto se lo vivono sulla terra, sono condannati all'inferno finché vivono, no? Quindi dicono lui è una cosa che non deve succedere, ma alla fine forse non c'è stata mai una situazione sociale di necessità di vivere così multitasking, come si dice, no? Quindi dover essere sempre presenti su tante cose nella vita e molto velocemente, i figli, il lavoro, altri aspetti, la concorrenza di ogni tipo, appuntamenti, veramente è difficile tenere tutto sotto controllo. Questo non giustifica nulla, però evidentemente qualche segnale così da analizzare c'è, Beppe. Allora, ascolta, io andrei a monte sul concetto della colpevolezza e innocenza, puntando un po' il dito al discorso della colpevolezza. Cioè, se questo padre è tornato il giorno prima dal lavoro, aveva un grosso problema che avrebbe risolto il giorno dopo monta in macchina, sempre con questa ossessione in testa, e poi la moglie Michele, Giovanni o come si chiama, guarda che devi portare tu il bambino oggi al nido perché io non ce la faccio. Ah sì, ok, lo prende, lo carica in macchina e per tutto il percorso è lì che pensa a questa maledetta questione che deve risolvere in ufficio. Arriva in ufficio, cioè intanto parcheggia, se riesce a parcheggiare, vai su, e il bambino? Cioè, ma la società, noi, ognuno di noi, a quest'uomo quanto spazio ha lasciato? Beppe. Quanto spazio ha lasciato per poter essere anche padre? No, questo è vero, è anche per essere madri, quanto poco spazio sì, c'è. Sì, ma io ti parlo da uomo, anche sì, se sì, non sì, ho figli, no. Io ti parlo da uomo. No, capisco, cioè, mi fa piacere che tu faccia questo sforzo di empatia. Io sono vicino con tutta l'anima a questo padre nel suo dramma e a questa madre che è stata vicino al suo uomo in questo dramma e non lo assolvo, però credimi, io non me la sento di condannarlo. Ultimi minuti per intervenire qui a Non ci sono più le mezze stagioni. Roberta Giordano sempre con voi, mi ha accompagnata come opinionista estemporanea oggi eccezionalmente Serena Dandini con il suo esordio letterario Dai diamanti non nasce niente, pubblicato da Rizzoli. Serena, dicevamo prima anche con le ascoltatrici e con gli ascoltatori questa cosa, e Beppe ne ha parlato con molto coinvolgimento, empatia, no? Questo sì, no, ma io infatti sono d'accordo, sia su un po' la posizione esemplare, perché sennò sembra una cosa che diciamo è una cosa come un'altra, gli si toglie importanza, però sono anche molto d'accordo con quello che diceva Beppe, perché comunque dovrebbe portare questo episodio, questi ahimè, perché plurale si parla episodi, a una riflessione sulla qualità della vita in cui praticamente gli esseri umani ormai sono costretti a fronteggiare, che è veramente bassa rispetto a produci, lavora, consuma e poi alla fine tutto diventa, no, tutto quello che sono gli affetti, la felicità, la gioia di vivere, il piacere di stare con gli altri, di condividere momenti, no, di amicizia, diventa, come dire, veramente minimale, uno si trasforma un po' in una bestia. In un automa, se si potesse un po' rivedere la nostra organizzazione di vita, ma io penso che ma sia troppo tardi. Molti stati stanno rivedendo. Sì. È incredibile come anche, non so, la Francia con Sarkozy, che non è certo Che Guevara. Però per le donne, per la maternità, hanno fatto molte hanno cose. Hanno istituito Francia, dei sì. comitati per ricercare anche l'indice di felicità di un paese. Perché sai, questo PIL di cui parlavamo prima, che poi è, come dire, il nostro totem, dove dobbiamo consumare, se no il paese va indietro. In realtà il dramma è che, non so, davanti a un terremoto il PIL si alza, davanti a delle disgrazie si alza, perché significa ricostruzione, significa... A volte anche davanti alle guerre, perché significa l'industria bellica. Alle guerre. Allora, cioè, capire un attimo che cosa vuol dire veramente crescita e benessere. Certo. Domenico da Roma, sinteticamente sì. Domenico, che ci avviciniamo. Sì, molto veloce sarò. Grazie. Sarò molto veloce. Credo come Bolt, ormai... come Bolt, sì. Sì, no, velocissimo. Io credo che ormai sia il tempo di mettere una legge, non è bello dirlo, ma su queste situazioni dei bambini. Di che tipo? Perché, una legge che preveda la... una pena, dici? Assolutamente sì, mi dispiace, ma non è bello dirle queste cose, ma purtroppo arriviamo a questo. In Italia noi arriviamo a questo. Pertanto c'è il bisogno assoluto di una legge. Domenico, ti ringrazio, è stato veramente istantaneo. Domenico, molto chiaro nel suo pensiero, abbiamo sentito quindi anche un parere diverso su questo argomento così delicato. 800240024 e adesso c'è un appuntamento immancabile con Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma. Cara Valeria, questa volta ti sottopongo un termine sul quale abbiamo dovuto stare zitti, censura eccetera, ma il termine si può pronunciare, ballottaggio. Che certo, ci racconti, parleremo solo unicamente della la parola ballottaggio. Beh, il significato lo sappiamo tutti, no? Il secondo scrutinio, quello decisivo tra due candidati, però forse non tutti possiamo sapere che deriva dalla parola ballotta. E che cos'era la ballotta? Ma la ballotta era il nome della pallina che si usava già nel Medioevo per votare, e esistevano anche un verbo, ballottare, che non usiamo più, cioè votare appunto con le ballotte, e poi c'era il ballottino, che era il bambino che tirava fuori le ballotte dall'urna nella elezione dei magistrati a Venezia. Però la parola ballottaggio a noi è arrivata alla fine dell'Ottocento attraverso, come tante altre parole, dal francese ballottage. E ultima nota, ancora negli anni venti c'era chi diceva che ballottaggio, in quanto parola francese, era una parola antiestetica. Ma noi di cose antiestetiche, addirittura imbarazzanti, ne abbiamo viste ben di peggio, e quindi ben venga il ballottaggio e la parola che la indica. Grazie Valeria Della Valle. Grazie. Ciao Valeria, buona continuazione. Cara Serena, abbiamo trattato un sacco di argomenti, tantissime notizie sono venute fuori. A proposito di felicità, di qualità della vita, io non so se ti consiglierei di andare, se già non ti hanno invitata, se già non hai preso altri impegni, al Festival della Felicità di Pesaro, che si tiene in questi giorni fino al 30 maggio, se non sbaglio, proprio per chiarirsi che cavolo è questa felicità. Non so se per esempio, questa famosa felicità, non so se per esempio è portare i bermuda a scuola. Hai sentito a Trieste che sono stati bloccati dei ragazzi che devono andare a fare a scuola un preesame, un istituto superiore, e il preside ha mandato questa ordinanza per cui, questa circolare, non potevano entrare coi pantaloni al di sopra del ginocchio. E poi loro hanno chiamato i carabinieri, gli studenti, insomma, è arrivato un compromesso strano, le cose che succedono. Serena, come vogliamo concludere? Vuoi darmi un consiglio sulla crassula perché non si distenda per l'ennesima volta sul vaso e mi abbandoni così senza rancore? Resistere. Questo lo farò, cara Serena. Allora intanto ti ringrazio, ricordo ancora una volta. Grazie il tuo libro, cara. Dai diamanti non nasce niente, ma dal libro di Serena nascono un sacco di cose belle, simpatiche da leggere, anche di consigli utili per imparare, anche per viaggiare. Per viaggiare anche. Brava Serena Dandini, ai tuoi prossimi viaggi, anche letterari di qualsiasi tipo. Ciao Serena, e da Roberta Grazie. Giordano, a proposito di Serena, sereni orizzonti a tutti.